programmi. Fu quel lavoro l'ho fatto che, come ha detto tu, lo suite impazzisce. Mi sta impazzendo adesso, sale e scende, sale e scende. Sta impazzisce. Cambia il streamer, no? Fai prima a cambiare il streamer. Piglia il valore di quel streamer, va veloce, ma come si chiama la cosa? Da fusare, tanto, sono le 4 e mezza, aperto. Alle 6 chiude. Prendi e glielo cambi. Ma lo faceva anche a me, lo faceva, non è roba di bit, è quella, è roba di trimmer. È roba di trimmer in pratica. Il trimmer è stato a fanculo, quindi cambia e glielo fai prima. Ma non è che si stabilisce subito. Ci sono i cabocini ormai e non conducono più. Io ci avevo usato un eco così, saliva, scendeva, cazzo. E tutti dicevano, cambia quello, deve essere il finale, senz'altro, cambia quell'altro. Ho cambiato il film, e cazzo, boh, 15 volte, tondi. Grazie, li ho cambiati veramente tutti e tre, li ho cambiati. AM, PWR e l'altro, boh, era perfetto. Ma che batterie hai comprato, me lo spieghi? Ma di quelle di caricabili normali? Da 1200? Sì, sei donto, sì. A cosa? Ci sono a Lilo, ci sono a... Nello spicco le batterie, sono verdi. 1200 mAh, e tu vai da Giorgio Grazia a comprare le batterie, ma sei guasto forte, dico. Quando vuoi, te le do. Al condensatore. Esaurito il proprio Savanti, esaurito. Buonasera! E come sta andando da quelle parti lì? Buonasera! Voi devi stare entrando adesso a lavorare, no? Io sto andando a lavorare adesso. Ma io pensavo che fossi entrando a lavorare, perché ti sei sentito così contento, hai giocato, ma questo stare entrando. A me lo prende, si vede un paio di bottiglie di vino se si dorme. No, ragazzi, lo stanno andando a lavorare. Entro alle 6:30 e finisco alle 7:30. Cazzo, dalle 6:30alle 5:04 c'è un'ora e mezzo di cosa, mi dai? E dove stai andando? Fate una pericchella. Ma cosa? Sto solo al porto per farmi una costruzione al trattore. Ah, ecco, adesso ho capito. Avanti Luca. Luca è sparito. Avanti KP2, mi dice Eugenio, lo ascolti. Sì, penso di sì. Sì, se c'è un taglialucchetto ci avremo il bar aperto. Andiamo dentro, 2 minuti, beviamo quello che dobbiamo bere, poi ci mettiamo un nuovo lucchetto e andiamo fuori. È chiuso, solo sta facendo nuovo il bar, non è ancora aperto, i bar sono ancora chiusi fino all'11 di giugno. A quando adesso? Rocco? A quando? Stasera? Sì, sono a casa, qual è il problema? Se avete un bustone di quelli dello spirito e te lo metto dentro. Ti ho detto sono a casa, se vuoi bene a me, basta andare allo spirito. Ci pigliamo le lattine e ce le bevono assieme, quella di Nafuzzi. No? In tre no? In due sì. Cosa devi comprare? Lo spieghi. Ma roba di elettronica, GBC apertomi. Anche Fusaro. Aspettate che vogliono entrare un attimino. Avanti, Alfa 21, buonasera a tutti. C'è il padre di chi ho da Ruggerito, c'è Alessio e poi non so chi ci sia. Buonasera a tutti. Capri 1 da Capri 2. Oh, ma perché sta facendo così basso? Senti i segnali 1? L'altro giorno lo sta facendo bene, boh. Ma cosa che devo aver toccato? Ogni giorno sta toccando sta questo qua. No, è la nonna, siamo un po' stati da lì. Ah, ecco perché. Cazzo, arrivava a 8, 8 e mezzo, quasi 9, adesso tutto tanto uno di segnale. Ma già che lo sentivo, se non avessi detto niente tu non avrei mai sentito la verità. Ciao Riccardo. Alessio. Allora, vi saluta tutti e due, al Capri 2 e Alessio, Alfa 21, vai. Perché non vai a Sosa a cambiare, che ti farò pagare di meno? E non lo dici a me. Io devo fare 7.30, devo fare una domanda e non c'è ancora il CUD dalla ditta, perché quello che ci stava praticamente, che teneva il personale, l'hanno arrestato e quindi è un casino. Ehi, ehi, che macchina c'hai adesso qua? Fatti l'impianto a gas già. Ah, diesel, vabbè. Già va meglio a gas. Avanti, Alice. Allora, Bubu, dammela a me, dammela, mi faccio il patentino, capito? Faccio la patente con quell'Alfa, poi la prima curva che trovo, cazzo, figlio, mi si imbarro. Ma dove sta? Passa a lui. E poi ti avete visto, vai, sei automata, cazzo. Io ci voglio sacco di soldi, mi ha avuto io problemi qualcosa con l'Apollo di babbo, quindi figurati tu, 1000 passeri abbiamo voluto metterci per poter usare Giovanna, quindi figurati tu, io capisco cosa vuoi dire, infatti stavo dicendo andava a me così la uso di, senza paga, senza niente, per fare un regale la uso, cazzo. E già arrivato a canale, è passato su 12. E vabbè, adesso ti metto le linee dentro una sacchetta di rospi dentro, così ti se lo busti e ti avanti, ok, a fa poco, là, ciao. Quando sei sotto telefonami, già lo sai il numero di telefono mio. Sempre mi sei da ridare. Ah, è un secco, ho i soldi fuori dal mattone, Gianni, che viene tutti guardi, via. Siamo tutti dalla stessa barca già, siamo tutti così. Avanti a lì. C'è anche Luca, mi fa. Luca, ci sei. Lo sai che Luca si buca ancora? No, non l'ho ricevuto ancora, ma su WhatsApp l'hai mandato. No, non mi è arrivato, se no mi avrebbe suonato. Io non l'ho detto chi è, ma come? Chi sei? È Riccardino la salsa, mi avanti, chi è? Allora questa, Riccardino però di solito mi arriva. Lo so, però è dalla nonna adesso e quindi c'è un portatilino, è per quello che non lo senti. Poverino, con portatilino, dai, ci mette un attimino a nonna ogni tanto, dai, così lo sentiamo. Comunque ciao, riprendi adesso in bianco, sì, ciao a tutti, voglio la questa. E niente, Capri 2, guarda che quando metti le batterie ricaricabili nell'Avan 38, quelle finte batterie vanno tolte, devi riempire di batterie la tutta di dietro, capito? No, nulla, non c'è più. Guarda già che quando metti le batterie nell'Avan 38, quelle batterie finte le devi togliere. Le batterie finte servono quando metti le batterie alcaline, ma se metti le batterie ricaricabili, siccome hanno un voltaggio leggermente più basso, ce ne vanno di più, comunque devi togliere le finte liste e riempire le batterie ricaricabili, mi sembra che siano 10. Quelle batterie fittizie le devi togliere, al posto di quelle 10 vanno altre due batterie ricaricabili, devono essere 10, non devono essere 8 più 2. Devono essere 8 più 2 solo quando metti le batterie di Racer, capito? Invece quando metti quelle ricaricabili, devono essere tutte ricaricabili e devono essere 10. Tu in questo momento con le batterie nuove le stai sfondando. Capri 2, sai che ti conviene tornare da Grassi e prendere le altre due, perché non le devi mischiare le batterie ricaricabili, e devono essere tutte nuove e devono essere ricaricate di volta contemporaneamente. Dunque devi andare da Grassi, prenderne altre due, ti spendi almeno altri 6 euro e fai circa 30 euro. le metti lì, le ricarichi tutte assieme, le ricarichi tutte assieme per due volte e così si mettono in pari e da lì riprendi di volta a caricarlo e a usarlo. Se no, se non fai così, guarda, ti fai solo danno. Circonvallazione ti arriva a Santiago 2, a me mi arriva a Santiago 9 neanche, quindi manco il pelo mi cuico. Ti è rientrato sì, fortuna. E ha fatto qua Sant'Onello, dovevo smontare a Luna, che sono in piedi dalle 3:30, e ci sono salito a Bonorva a portargli il mio trattore perché doveva fare l'incrocio con Cagliari. Io sono rimasto lì a aspettare il meccanico. E l'hai sceso giù? No, Antonella ha proseguito, perché sennò poi, già lo sai, noi abbiamo delle ore di guida, pause, balle varie. Ma quello di Antonello l'hai portato giù tu? No, è risalito lui col mio trattore, io ho saltato il guardrail, ho già detto, oggi mi fa sdrecciate il longo. Mi sono preso attorno al mio mese e Antonello è rimasto su che c'era il meccanico, ma stava finendo, dai. Tu non lo bevamo il 5, non ti ha giù visto, chi ti vede, niente, perché tu lo superi parecchio il guardarei, Se verrà stato una buona mai sciaboletta, allora non l'abbiamo visto, Ma mi sai che mi sono anche strappato i pantaloni, lo sai. C'era una sbavatura a cazzo nel guardarei, chi ci ha controllato? Perché sento aria a cazzo dentro, dici? No, meno male. Sì, senti aria magari perché ce li hai talmente gonfi che ti si stanno allargando i pantaloni. Forse è quello, meno, hai ragione. Sono le 3:30, minchia, sono le 5:15, fortuna. Per carità, guarda. Lui non ha un rispetto. Uno che ha 61 anni va dello travaglio di uno che ha 21 anni, appena entrato, uguale, lo devi fare uguale. Come la fate i vecchi, tu, Michele, è tutta la greffa che conoscevo io. Il lavoro che facevate voi, i ragazzini se lo sognavano, capito? Molto, molto a rilento. Vabbè. Ma sì, però pigliare un mattese stipendio, fortuna. Veramente, per carità. Aspetta, questa cosa di cassa integrazione, al prossimo stipendio cosa prenderemo? Ma vediamo. Mio figlio non è arrivato niente ancora, ma un cito affiliato dall'11 di marzo. Niente, c'è babbo. Cappa. Oh, io ne ho fatto una settimana in aprile e basta. Invece mia figlia è chiusa perché settore bar, ristorazione, capito? Sono chiusi. Fino al 1° di giugno. Detratto. Eccoci qua. Silenzio. Va bene, fortuna. Comunque dimmi dove sei arrivato, così poi ti lascio andare. dai, sto entrando per salutarvi, dai. E qua a Bricome, sono quasi alla base Trabacco, dai. Ciao Class, ciao Gianni, ti ho salutato poco fa, forse hai fatto un po' di bianco. Salutatemi a Luca quando entra, torna in modulazione. Ci sentiamo, dai. Ciao, no, ti ho salutato perché c'era la portata e non sentivo niente, c'era uno che metteva la portata e ce ne siamo andati su un altro canale. Già, dimmi di poco già. Senti, a Lotto mi stava arrivando la portante a me. Fortunato l'ha rilevata lì a circonvallazione Santiago 2. Quindi è sicuramente nella parte bassa, vicino a voi già. Chi su Fingi Luce, deve essere sempre. Poi sta vicino a tutti. Ciao, qua. Ciao, chi è? Danilo. Fabio. Allora fai un bip e non fai più l'ecco. Ciao Fabio. E ritirati presto la notte, se no ti chiudo la propagazione. E te lo sto ascoltando io. Così. Ciao Fortuna, un abbraccio grande, dai, ci sentiamo. Ieri notte abbiamo chiuso a mezzanotte. No, stavo guardando un po' di TV, poi mi è venuto l'abbiocco e poi stamattina te l'ho detto già, me lo devo fare presto, se no un casino. Ho fatto tutto quello che dovevo fare, gliel'hai visto. E poi niente, poi sono entrato a casa mezzogiorno, dai. E prima mi trattenevo anch'io sino a luna, mezzanotte e mezzo, luna, ci siamo trattenuti a volte continui. Però adesso non fa più, mi sto alzando presto, Fabio, quindi ho bisogno di riposare, capito mi hai? Io ho fatto tutto lo stesso, ho comprato anche i morsetti, li ho piazzati, che me ne sono risceso. Tra l'altro stavo aiutando l'ascensore, me lo dovuto fare tutta la prima. Ho lanciato ora, prendo, quando lì è a posto, eccetera. Praticamente se ne stanno andando a letto, quindi è un altro, ma vado a casa niente, sono 50 metri da qua, non c'ho niente. Però ho guardato il ricevuto di nuovo Black Jaguar, mi stavo ascoltando, cioè mi stavo ascoltando. Ma hai messo l'antenna fuori fa? No. Studiare. Vabbè che sei vicino a me, nel senso vabbè, non vicino vicino, comunque ti vedo. Studiare. No, più venti abbondante stai arrivando. Io posso giurare che non ho toccato niente. Non segnalò in cielo. Un segnalò in cielo con l'antenna piccola. Vabbè. Oh già, ti volevo dire, hai visto quel pezzo che abbiamo provato a togliere? L'ho appena appena scaldato perché non c'entrava in ascensore, cazzo fare 9 piani a piedi per quel pezzo mi si girano le balle. L'ho scaldato un pochino con l'accendino. Ma un secondo. Ha fatto si deve essere sciolta la. L'ho girato appena, ne è uscito. Pulito, pulito, nuovo, nuovo. Ma adesso sono tutti smontati, tutti da pulire. Ma era già pulita l'antenna, l'avevo anche smontata e pulita con Fabrizio. Tutta quanta, pezzo per pezzo. Capito? Sì, ma adesso la rimetto sotto, la faccio tutta con l'acciaio, bene, lucida, lucida. Poi faccio quel lavoro che ti ho detto. Vediamo un po', la provo. Perché mettomi quel palo che mi hai dato tu, che c'ho due staffe libere, metto quel palo, l'appoggio lì, gli attacco un cavo, anche un RG58, che ce l'ho in bando su per fare la sonda, gli attacco quello lì e la provo, perché voglio vedere se va bene, capito? Infatti, per fare la prova, dai. Tanto c'hai tutto, ti ho dato anche quegli affari per incastrarla nel tubo, quelle cotte che si mettono dentro per piazzarle. No, già dovrebbe essere una cosa fattibile, metti la molla dell'altra, se ci giri della molla sono uguali. Sì, sono precisi, la misuro prima, ne metto le staffe, i cavallotti nuovi, capito, l'altezza di come metterla adesso, poi la taro, salgo, scendo, cioè, la faccio, la metto a posto, e poi la conservo. Va bene, e allora, Fabi, no, stavo dicendo un bel segnale, caspita, 9+20 con quell'antenna è ottimo. L'antenna è buona, è che purtroppo è ballata come non si deve, ma sono costretto in questo momento, te l'ho detto, deve arrivare questo foglio al condominio, in maniera tale che la posso piazzare dove dico io, e allora magari si tirerà un po' meglio, anche perché fissato in 9, a volte scarico RM, c'è gente a fianco, non lo so, insomma, tutto un pasticcio. E niente, niente, non ho fatto niente. Io non lo so perché accadono queste cose, non ho toccato manco la ciabatta, nulla. Però a momenti lo sembra che sono di più. Quindi lo sta giù 19 più 20, mi sento in abbattimento. Va bene, che è un segnale ottimo, quindi quando metti l'antenna grande sicuramente è un ottimo segnale. Vabbè, se sei nella zona lì dove abita Vittorio Grode, nel primo periodo, a Lune Sole, in via degli Astronauti, ti vedo, tu rimane qua fra 9.30, 9.40. Avanti già, riprendimi. Aspetta che c'è... come si chiama? Fa 21 che sta chiamando, avanti. Ehi, Albertino, te l'ho detto, ma cos'è un valvolare? Caffagata, lo immaginavo, no, è un bel apparecchio, dai. Ti stai facendo sempre Roma americana. Caffagata, e tuo padre non si... sempre quella roba lì le piace, la roba americana. Ma vabbè, la passione. Avanti, Claudio. Io purtroppo non lo copio oggi, è peccato. Io non l'ho mai copiato, lo vado, continuo a comprare i baracchini invece di comprare l'antenna prima. Come fai a sentire una persona che muove col baracchino non c'è l'antenna? Sto sempre comprando radio, baracchini, di quelli vintage, antichi, però antenna io non la vedo, non lo so, non l'ho mai sentito praticamente, una volta l'ho sentito, adesso non arriva, manca misericordia qua. Sì, ne comprerà anche l'antenna, sicuramente ne compro una 5 ottavi adesso, cavagava. Io Claudio ho piazzato tutti i borsetti, sono salito su e ho fatto tutto, ben ducato di via. No, già troppo caldo, assolutamente. Io sono salito sui mansardi, ho sfatto la strada, ho poggiato tutto, ho messo tutto da parte e adesso una di questa mattina mi salgo su, mi apro la finestra, mi porto una bella bottiglia di acqua fresca e mi metto a lavorare. Vediamo cosa ne salta fuori. Io per 5 ottavi ce ne sono tante antenne, ma ci sono anche 5 ottavi non si viene a nulla. Già, però sei meglio di me, quindi ci vuole un'antenna buona, ci vuole un'antenna buona. Baracchini ce li ha, bastano questi baracchini, ci vuole l'antenna, mette l'antenna su un palo, no, attaccata all'albero, no, l'antenna ben messa, con un sistema alto, capo grosso, 213, H1000, un bel impianto e vedi che lui si fa sentire da tutte le parti. Se continua così, arriva da qui alla Landriga. Ma che cosa hai preso? Quella che c'ha anche Marco, no? No, non è quella lì, la Sirio è quella che c'ha Marco. Ma parlando sta già. Si è preso la Bisla, oh Claudio, quella che sostituisce la mano. Che sostituisce la manta, ma la manta va insostituibile. Cos'è il cabista? Cos'è? Lo va a mangiare? È l'assidio. Io, beh, non ha sostituito niente l'assidio. Ha fatto un'antenna similare alla manta, ma la manta non la sostituisce nessuno. Già. Marco l'ha messa lì, Marco ha messo l'assidio. Ma quella è la Energy. Quella di Marco è la Energy. Quella è la Energy 5 ottavi. Va benino con l'antenna, non è molto robusta ma comunque fa il suo lavoro, va bene. Il problema suo è che da lì, da quella zona, da Filigheddu, deve sollevare. Se non solleva non va da nessuna parte, c'è tutta la vallata del bassa, capito? E poi sale dal viadotto Sassari, quindi deve superare. Deve sollevare, fare un bel impianto, non attaccare all'aibolo l'antenna. No Marco Drottapignano, Marco Scurto l'ha messa nuova e ha messo quella simile alla Mantova. Ma è tornato 27? Ah, ha preso via tutti i radiali, già io finiamolo, beh. Ho detto che la Mantova è insostituibile. No, non c'ha quella lì, c'ha quella che sostituisce, praticamente che dicono che sostituisce la Mantova, la 5 ottavi è bella, è anche robusta. Si chiama Tornado 27, quella lì, non lo so, Non ne ha già perso radiali? No, 590, me l'ha detto, non mi ricordo il numero. Sì, vabbè, ma ne ha perso sempre i radiali. Capito? Non è... è uguale, il lavoro è quello, la spirale, cose così, ma il lavoro è sempre quello. Lavorano tutti uguali. Il problema è il materiale già, lo sai, la Mantova è Mantova, è insostituibile per me, guarda. Il materiale che c'è la Mantova, che hanno fatto nella 1 e nella 5, anche la Turbo, a parte quel piattello, quella cagata che hanno fatto, ma sono materiali veramente, veramente buoni. Adesso non invadono più materiali così, è come le macchine già, le macchine che facevano un tempo, i motori facevano un tempo, la carrozzeria, il materiale, non è più come prima. La stessa cosa ti può rispondere Giulio per quanto riguarda il legno che c'era prima, la lavorazione che si faceva prima, adesso non c'è più, ma va tutto mombezza. Ha detto che non ne ha trovato di Mantova, ha detto che non ne ha trovato Mantova, beh certo, io l'ho trovata a Mantova, anzi a Reggio Emilia l'ho trovata, in un negozio di Reggio Emilia che è 10 km, 20 km da Mantova, capito, me l'aveva portata un camionista. E l'altro giorno mi stava dicendo proprio Massimiliano che aveva visto un sito dove c'era qualcosa che vendevano residuo di magazzino di Mantova, ma ne voleva 120 euro però. No, ma costa 119, quindi. No, io non ho bisogno di Mantova. Non ho bisogno di niente, le antenne ce le ho, ma va bene così. Ok. Ciao Antonio, buonasera, ben sentito. Fabio, riprendi, fai girare che io vado a bere una cosetta fresca, acqua, perché c'ho una sete da morire, stavo cambiando la cerniera di un pannello della cucina, che poi devo verniciare e quindi mi stavo mettendo qualche cerniera nuova. Ci sentiamo dopo ragazzi, riprendi Fabio. Ok Claudio, buon lavoro, ci sentiamo dopo. Niente, lei. E poi, ma... Che finale devi dare a Coso? Sì, il bevuto mi devo dare MK3, vuole, in pratica. Avevo già promesso un'altra volta, ma mi ha trovato una risposta, un'altra volta, adesso oggi si ritira. Ci vuole tutto, ci vuole. Io mi sono una busta adesso, poi sapeva lui cosa fare, se buttarci o usare per pizzi, cosa ne so io. A quello che mi dicevi stamattina? Eia, siccome ieri mi ha detto, dice, boh, forse non lo voglio, non me frega niente, no? Stasera che mette lì, quindi, se lo boh, se a me non mi ha fatto che mi sono le palle. Mi tengo l'altro, e basta, tengo. Vabbè, però la correlazione abbiamo fatto bene in maniera diversa. Ho buscato il sintonizzatore di televisione della valvola nel 68, ha acceso l'accordatore. Se per questo vuoi l'accordatore piccolo io lo trovo io, che c'entra? E di quelli fatti i miei, tipo radiolina, capito? Più di 10 watt non lo puoi mettere. Se si incendia, c'è plastica, la mia cosa, rame, plastica, come quelli, come ti posso dire? Poi si usa la radio, quando fai a girare le frequenze, capito? Sì, quello me ne sto facendo uno anch'io, così con due connessioni variabili di sintonizzatore MFM. Ho già preso la scatolina, con quello sempre ce l'ho già, là volevo andare a trovare qualche vecchio sintonizzatore, magari gli autoradio lo busco e lo faccio forse a T, o a T greco o a T lo faccio uno dei due. Vabbè, adesso me sai cosa faccio? Siccome non c'è Alessia in campagna, posso stare tranquillo, con le palle, adesso vado e ti prendo quella roba che ti ho tolto stamattina, te la metto in busta, così dopo passi e te la prendi. Quella parete ti ho bruciato. Eia, anche l'altra, quello così c'è di fare la modifica per 120 canali. Io da un volta e mezzo mi sono messo. Vabbè. Già. Già, lì. Buona, mi ha dato. Ma tu a favore? Sì, a favore. Chi è che sta uscito a fischi avanti? Avanti chi è? Sparito. Oh, no, è buonasera. Cazzo, sei sempre tu? Solleva, solleva. Non ho capito, sta vicino, quanto è il segnale? È basso, sollevati, sollevati come ieri. Va, sono seduto in terra, quindi, anche se ho messo la sveglia, non c'è niente. Aiuta, già ti sei sollevato, tu fregatene. Sollevati, sollevati, caro mio. Lo sollevi, perché è basso sto arrivando, è tutto. 5. Ah, vedi, già, qualcosa. Ma 9 come ieri è diverso, scusa, eh? Ma che ieri, uè? Pompa, pompa. Manda bocca. Non aspettami, ma non da bocca. Pompa, pipero, pompa. Già non mi ascoltavi, bel tocca. Già non mi ascoltavi prima. Mi ascoltavi, mi ascoltavi, non era, in mezzo a lei, ma là, un po' ha migliorato, ho portato l'antenna. Vabbè, ma ti volevo più alto la vita, comunque sia. Guarda, prima arrivavi sempre a 1, 2, forse 3, a un certo punto, almeno adesso. Dai, già tu, questo ti vuol dire belli, allora era 500, quello che è. Ma sono chiuso un'altra frequenza, noi qua fa male, qua ti fai male con quelle cose. Comunque vabbè, dimmi come la radio, comunque l'ho messo nel tuo amplificatore, come la radio? Fa un po' meglio, appena per la Saturno va meglio, comunque sia, Vannino. Ehi, anche la Saturno? Sì. Bene, sono strano, vabbè, la devo allineare comunque. Allora te lo giro che non è più, tanto è perché io lo compro, tu. Ma non ve lo senti Saturno, Antonio, cosa vai? Lo baracchino vi sattura già le volte. Poco fa la Saturno, claro. Ma se tu entri, cazzo, non ascolti, cosa ti devo dire, secondo te? Adesso è leggermente più chiaro, già lo sai. Ti ho fatto regolare. Cazzo, tu entri proprio, tipo la saeta, cazzo. Pigli entri, non ascolti, senti meglio, fa una cosa Vanni, rimettilo come la prima, così vediamo se Claudio ti ascolta bene. Ma no, lei l'ha fatto più appena su Claudio, come puoi parlare? Ovviamente ho cambiato il microfono, ho fatto questo amplificatore, ma non mi pare, sai, perché mi ascolto anche con un'altra radio, lui sembra normale, adesso. Infatti è normale, forse lui si è sbagliato, non è satura, è leggermente cupa, ma è abbastanza comprensibile con la radio che c'ho io, forse con quella che ha lui è un pochino cupa. Io stavo ascoltando Antone, non so bugiardo, infatti ti ho detto come mai tu lo senti saturo, io non lo sento saturo, lo sento un pochino cupo, ma la modulazione già va bene, si può parlare, dai così. E senza porcetto in pratica me. Non è so com'è, ti ho tolto un po' di basso. Troppo alto, devi abbassare. È troppo, adesso stai strappando. Sì, se riesco a allineare l'impianto, a te parlare. Così va bene. Va bene, amplificata normale, la mia, la villata, capisci, le sigle, al comunque va bene, con amplificazione, solo la via la villata. Sono i bassi, sono i alti, i medi, sono il compressore del basso, non si chiama, dell'impianto comunque, va, tutto lì. No, già va bene. Cioè i medio bassi già va bene, si sente bene, ma io ti ascolto bene. Non al 100%, ma al 95% va bene. E invece il segnale com'è? Il segnale è quasi 9. Vabbè, là, tutto a migliorare. Vabbè, così la devo lasciare, no? Perché se le aumento un po'. Ma poi c'è solo sempre. Ma l'equalizzatore. È un mixer Antonello, lui c'ha un impianto audio e lo sta regolando per quella radio lì, non è che puoi pretendere chissà che cosa, ma dai, già lo senti meglio adesso. Oh, sembra senza processore la verità, sembra che sta usando guarda che l'apparecchio senza processore la verità, magari se passa in FM lo sento chiaro chiaro, ma comunque sì, in AM è così, non puoi dirmi, no? Antonio, ma cazzo, siamo sempre le solite, tu stai ricevendo con un baracchino, io sto ricevendo con un HF, quindi è chiaro che la mia ricezione è migliore della tua, Antonio. Tu senti magari qualche disturbo in più di me, io non sento niente, assolutamente. Ma spiega, perché a te ti sento bene e a lui no? Siete tutti e due colchevoli, quale vuole? Spiegamelo tu, eh? Lui sta usando il cable di trap. Lui sta usando un altro tipo di radio. Non sta usando il cable, non sta usando l'MC60. Quindi, io sto usando il K440 con l'MC60. Lui non sta usando la radio che sto usando io. Sta usando, ti ha detto, un sistema audio, ok, tipo mixer o un mixer. E quindi lo sta regolando. Io lo sento così, la verità. È come se fosse senza professore. Microfonico, il discorso è quello. È quell'effetto lì. Aspetta un attimo, guarda che così mi sono allineato anche un leggero compressore, perché lo posso aumentare o diminuire, ma il problema sai cos'è? Che quando si arriva a Polo Scala, io ci arrivo qua, quindi la radio non è che puoi, perché la radio va in base anche alla segnale radio, più alto è più è presente la radio, più alto è, quindi più basso è più riesci meno a descriverla comunque, però voglio dire, no, è male, voglio dire, va bene, non va bene, non pretendere che, non so io, non posso usare né il Matic né gli AES, perché comunque quelli non vanno. Ma infatti io sto spiegando che lo stai usando quella roba lì. Per me Vanni va bene, se dai appena appena di preamplificazione senza toccare niente, ok, un po' più di volume di radio e basta, per me va bene così, ma appena però. Aspetta, è così com'è, così la taro, la lascio, la chiudo. Cioè chiudo tutto il discorso lì così, chiudo, boh, e lo lascio, se va bene. Per me va benissimo, puntella. Allora, piombo così, lascio tutti, faccio le segni al parametrico e lo lascio così com'è, se no non è più bene. Perché quello sente, non sente, ma faccio più affidamento a te perché uso una radio decente, dai, non un baracchino, cioè quel segnale forte, quindi bene o male, voglio dire, cioè, tra un segnale forte la radio si mostra di più, capite? Questo voglio dire. E questo voglio dire Antonello, io infatti è così, ma io ti ho ascoltato anche con il 756 e la modulazione è bella, va bene Vanni, col 430, col 140, per me va bene. Per me ti dico che è abbastanza affidabile così, non aumentare di più perché sennò strappi e fa male. Davanti, Anthony Quinn. Io non sono d'accordo con te, la verità, perché non sono d'accordo per niente, poi non lo so, vedi tu. Io lo ascolto in queste condizioni. Poi vedi tu. Vabbè, non c'è problema per quello. Cambia anche un altro microfono, se vabbè, se è una cosa veloce. Adesso va meglio, vedi? Se te l'ho detto che andava meglio, forse non stavi ascoltando, adesso l'ha registrato bene, non mi puoi dire che lo senti male. Poco fa, scusa, a un certo punto l'avevo messo, adesso va bene, è più chiaro adesso. Sì, sì, lo voglio dire, tu sei rimasto poco fa, io ti ho detto adesso, lo senti meglio e stai confermando, va meglio. È cambiato microfono, mi è alzato gli discorsi, insomma. Se c'è break, avanti Giovanna, buonasera, ti è diventata sì. Mamma mia. Perché mamma mia, non volete? Ma quando vi assunto tantissimo? Aspetta, adesso dobbiamo andare a Vannino e cambiati quella radio. Cambia il microfono a tua sorella invece di criticare gli altri, a te che non capiscono accidenti. Riesco, ti mando a fanculo, gira, perché uno diceva cosa, uno diceva a un certo punto, lo volete l'857, volete il cazzo di tornado, adesso volete tornado, poi l'857, ascolta, ci mando a fanculo tutti quanti stasera. Ascolta Antonè, vai e lavati la faccia e poi torna in radio, vai, ciao, con me non hai parlato, non hai chiesto niente, non hai chiesto nessun parere, Giovanna sta uscendo qua a casa da schifo, non capisco niente, poi se gli altri ti hanno detto il contrario, a me degli altri non me ne ha fatti nulla, per me sta uscendo da schifo, ok? Non si capisce niente, c'è un rumore sotto, tutta cupa, tutta satura, non si capisce niente. È così? Solo il bip sento io, poi non ho capito che ti ha regolato la radio, fammi capire. Non sono toccato niente, crabbo, da ieri. Cosa ne so Antonio, ma te la registro e te la mando, cazzo, ma vabbè, fammi cazzo davvero. Se ti ho detto che sto uscendo da schifo, ma a balle ti dico io. È così? Prova. Uno, due, tre... Ammassa! Che cosa, scusate, che cosa va a passare? Il time. Cosa ne so io? Adesso è molto più chiara, quando si è entrata non capivo niente, quindi qualcosa è toccato. Sono l'organo. Eccola, tienilo così, che la modulazione è bassa, ma almeno ti capisco. Poco fa quando si è entrata è di pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum. E vai la vadia a faccia, Antonè. Guarda che sono l'857, vi incoglionito adesso. Ho capito, ma se tu non glielo regoli e le spieghi come funziona l'857, non è un baracchino vintage, Antonè, cazzo boh, scusami. Veramente ti sono tornato. Tu lo so usare, pensavo che hai bruciato tutti e due, allora, siamo a posto. Sono tornato. Perché non stai facendo il bip e hai ritornato, scusami. Che cavolo ne so? Penso sì. Io stavo sento il mio bip che c'è. C'è da poco fa il bip, Antonio, forse non l'hai sentito. Parlavi sopra, non lo devo sentivo. Vabbè, comunque sia, siamo a posto, va. Tutto a posto, non c'è problema. Adesso sto uscendo bene. Ma poco fa, quando è entrata, era tutta peppata. Non capivo mai, non me lo fare dire. Adesso già va bene. Ok, aspetta un attimo, che c'è un break e poi c'è Vannino, forse vuole qualche altro controllo. Avanti, break. Non ho capito se c'era un break o qualcuno che ha parlato. Vanni, prova, fammi sentire. Vanni, eh? È uscito, chi è? Chi è che ha detto che è uscito? Ecco, fai una cosa, prendetevi da tutti i canti in culo. Ciao. Questo modo di parlare, uno entra, uno esce, uno dice, uno fa. Rilanci, non riprendi, ma arrangetevi. Aio, che da Bracchi. Bracchi sei? Sto parlando, scusa Bracco, ciao, ben entrato. Ok, c'è Claudio per caso. Era qua, si è arrabbiato e... Non lo so se nascondo, qua? Ma sono, diciamo, attenzione, di Claudio quanto ce n'è? Uno o due sono? Boh, non c'è più nessuno in questo canale, che cazzo? No, sto saldando Bracco, scusa, sto mettendo quello che sono le variabile. Facendo cose piccole piccole, capito? Sì, ma chi sei, mi sai dire? Cos'è, Bra? Chi sei? Fabio, Fabio Marta. Ma Fabio, no, ma Claudio non c'è. C'era Lello, Pompugno, c'era Giovanna, c'era Claudio, c'era anche Riccardo Alfa 1, la nonna, e c'era anche Gianni, solo che lui, non so, non so se di parlare. Ho sentito Claudio, quante, due o tre minuti fa, mi riferisco agli S0 di ISB, o mi sto sbagliando? Claudio, sì, ce l'ho segnato così, come radioamatori S0 di FB, Claudio, poi anche, no, c'è anche il numero di chiamata, c'è il nome di Sparviero in CB, ho capito, non c'è comunque, poco fa c'era ed è sparito, porca miseria, le volevo chiedere qualcosa di importante. Sì, deve essere in ascolto, non che non si appesa la cellula nel mobile di cucina che deve cominciare, ma c'è di poco. Ah, molla il pennello, aiuto, piaccia il PTT. Non l'ho capito. Deve reiniziare il mobile di cucina, allora cambiare una cerniera, poi rientrato, adesso è sparito. Poi prendere un valignano. Ho capito, quando ho sentito molla il pennello, siccome io faccio il pittore, che ho vinto che era rivolto a me di mollare il pennello, ma in questo momento non sto pitturando comunque, non sto pitturando. Ah no. Tranquillo, ma ci sei ancora? Cosa? Non arrivo a capire perché quando uno molla, almeno, non, almeno diciamo, vero, se no, sto facendo queste greca, sto facendo nulla, ce ne vanno, non ci capisci più nulla, è incredibile. Oh, Claudio si è arrabbiato perché in questo piano stava girando solo, perché uno c'era l'altro, l'altro è un parere diverso sulla radio di un altro, quindi io non sentivo di uno e l'altro, poi... No, ma io li sentivo tutti, bene, devo essere sincero. E poi questi fanno dispetti a Dio, Quindi, dai, già siamo tutti qua, alla fine non sarà la fine del mondo, no? Se uno sente una radio di uno in una maniera, l'altro sente un altro. Già non sono cose per le quali poi alla fine si muore, sono altre cose, cose importanti. È naturale, lui cosa siamo attaccati, già abbiamo tanti problemi, diciamo, e se pensiamo ci creiamo anche problemi, diciamo, nella modulazione, addio. e non c'è più gusto davvero. Vabbè, va, io resto in ascolto, dai, ma mi hai detto che anche tu stai facendo, stai lavorando o no? Sì, sto facendo una torre, sto creando una collatore di antenna da praticamente da 0 a 8000 più o meno, che c'è tutta la banda tra i 750 e i 1800, se non riesco a ricevere la postazione, capito? Ho capito. Allora, aspetta un attimo, tu sei, mi hai detto che sei? Radio Master, la questa. No, no, no, il tono nativo. Master, Master. No, non ho capito che ho detto, che sono mezzo, c'ho un orecchio attento, parla piano. Allora, Milano, Ancona, Sassari, Torino, Empoli, Roma. Massimo? Master. Aspetta un momento, non c'è bisogno di farmi lo splini. Così magari qualche portale dove c'è qualcuno strano per beccarvi. Porca miseria. Asco, ma chi è quello che si intende? Claudio mi sembra, no? Quello che sempre mi, diciamo, mi fa il nome Roberto, che abita al monte, dice se intende di fare delle apparecchiature addirittura. Ma non lo so, Roberto mi fa abbastanza pratico, quanto ho sentito la radio che ha, eccetera, non so se ci mette anche le mani. Claudio forse per antenne, eccetera, per il resto non lo so. Tranne con le cosine che sento di microfono, magari è bravo, io non lo so. Dopo ogni tempo facevo un sacco di roba, adesso ho capito che sta facendo poco. Mi è sembrato di aver capito che c'è un tale Fabrizio che sa mettere le mani in pasta, però non so chi sia. Ho capito. Ma scusa, ma che, c'è uno che si chiama Pompelmo anche? No, Pompelmo no, ancora. Pomponio è allora, boh. Pomponio, Antonello, adesso è Pomponio. Ecco perché io lo confondevo, lo chiamavo Pompelmo, vabbè, va, e mi scappa ogni tanto una cosa così. Ascolta, io diciamo, già tu stai aggeggiando, no? Io in campagna ho tante di quel materiale elettrico che non so cosa farmene, Dio buono. E sono mezzo tentato a darli non tanto ai radioamatori quanto alla gente, a degli studenti che si dedicano a costruire roba del genere, no? E, mi puoi suggerire approssimativamente a chi potrebbe, insomma, sono dei componenti che, da cui si può fare di tutto, intendiamoci. Ma quali componenti sono? Transistor, diciamo, avvolgimenti vari, ma da qualcuno si può fare anche qualche alimentatore di una certa potenza, basta diciamo, che posso dire, darle le uscite giuste, magari mettendoci un variatore di tensione o roba del genere. Ah, ho capito. Guarda, c'è un trasformatore che si può usare per circuiteria a valvole, cioè con uscite tipo 80 volt, 120, 250, 300, qualcosa del genere. Se ce l'hai te li compro, non è che li chiedo a regalo, te li vendo tu. Li stai vendendo tu addirittura, non ho capito. Certo, per questo materiale, cioè le trasformatori che hanno delle tensioni compatibili a circuiti valvolari, che io sto costruendo valvole, allora te li compro, come te li regali. Qualche sono cesce, capito? Naturale, io al limite la roba la porto a Sassari in cassa e poi la vedi quello che ti può servire e quello che non ti può servire. Ho dato, diciamo, valvole, no, le valvole le ho messe in vendita, ce ne sono 300 circa, tutte mischiate sono, però ce ne, diciamo, per apparecchi d'epoca, ce ne anche per apparecchi professionali, devo essere sincero, forse anche qua, ce ne sono anche, potrebbero andare per amplificatori anche probabilmente. Vabbè, comunque lasciami il tuo numero di base, eventualmente se mi ricordo porto un po' di roba dalla mia campagna che è a Torralba, poi vediamo. Sì, a Campa, ci possiamo già vedere, perché torni di uno matrice, giusto? Da vedere. Adesso che siamo un po' più liberi, magari ci diamo un mezzo appuntamento di questi giorni, ci troviamo a verificare e poi ci scambiamo i numeri. Dammi il numero di bassa, vero? Ma in radio non lo do il numero io, capito? Grazie, io il mio numero ce l'ho anche su Facebook, ma perché è pericoloso, non ho capito. Non è prudente. Sì, va bene, senza male, forse hai ragione pure, perché magari ti rompono le palle, papà, se non lo so, boh. Vabbè, ma il numero, il tuo numero se lo metto, ce l'ho almeno, sì. Chi ce l'ha il mio numero? Pomponio. Ma, direi che è Pomponio. No, io Pomponio manco lo conosco. No, e allora facciamo a maniera nostra. Tanto siamo di zona e ci diamo un appuntamento all'edicola su di una mattina di tutti i giorni e così non dico prendiamo un caffè per il tutto chiuso, però me lo si viene a verificare. Vabbè, allora veniamo là, quando porto la barata roba eventualmente o avviso Roberto qualcuno e ci vediamo, dai. Sì, per il numero non c'è problema, in realtà non mi piace. Vabbè, no, adesso volevo chiedere come si chiama a Claudio, se è rientrato, e ho chiesto semplicemente quali sono i ponti attivi in 144 qua in Sardegna oppure nei dintorni di Sassari, perché io c'ho un apparecchio di AESU eccetera eccetera, 144 e 430, e una volta lo sapevo usare, adesso diciamo me ne sono dimenticato perché era fermo anni e anni qua, no? Quindi ho preso anche le istruzioni, devo essere sincero, vabbè, le istruzioni sono complicatissime, gli ho fatto le fotocopie Roberto, però mi interessava le robe essenziali praticamente, no? Cioè quali sono i ponti che sono qua, che si possono eccitare da Sassari, e diciamo, siccome c'è un antennino sulla finestra, mentre prima ce l'avevo sul tetto, è probabile magari il problema sia per il fatto che non riesca a citare le ponti con l'antennino come sulla finestra, oppure mancano i toni o roba del genere, è complicato da parecchio. Ok, ti rilancio il micro. Ecco, in questo momento guarda, sto armeggiando sul condensatore, che in realtà variabile, che in realtà era il gruppo sintonia, un televisore a valvole del 68. E quanto ce ne avevi di quei condensatori io? Forse ce ne ho ancora, ma molto più grossi, non di quelli di apparecchio, ce l'avevo diciamo di apparecchi professionali grossi, adesso mi ricordo manca che li avessi, ma vabbè, in campagna ce n'abbia. C'è un sacco di roba che non mi ricordo più manco, diciamo, manco cosa c'ho in pratica, ecco. Per quanto riguarda gli alimentatori, ce n'ho due o tre che basterebbe variare, metterci delle uscite e ti danno anche parecchi aperti. Eventualmente quando ci vediamo. Poi c'ho dei condensatori fissi, intendiamoci, elettrolitici, grandi quanto mezza bottiglia addirittura. No, non so, quelli servivano a stabilizzare chissà quelle apparecchiature, li avevo recuperati in Capuano, a Sassari, li avevo recuperati fuori in continente, poi me li avevo portati in Sardegna, a me non mi sono mai serviti, devo essere sincero. Ma diciamo, chi si dedica all'elettronica sa anche come usarli e a cosa servono. Cappa. No, niente, io con questo periodo sto... Vabbè, continuando la solita cosa, la costruzione di apparecchi audio high-end, a valvole, perciò io sono quello fissato, ho avuto le 75, le CC88, che sono le 16J8, no? In questo periodo sono chiedendo molto riguardo ai giradischi, dunque sto sperimentando un amplificatorino per le tettine MC, no? Con le moving coil. E niente, le costruzioni che sto facendo sono queste qua. E poi vabbè, per quanto riguarda la ricezione, questo obiettivo di stamattina per farmi un'antennina per scendere, per salire anzi, che poi scende di frequenza sul mezzo mega, che è qui 0,5, 0,8, così che c'è un po' di roba, e me la devo accordare con qualcosa che mi sto costruendo, e quindi mi faccio un accordatore decente per il barattino. Ho capito, no, io come accordatore c'ho l'MT3000, no? Quindi accordo anche diciamo le reti dell'etto, a dire la verità, se metto fuori le reti dell'etto sulla finestra riesco a uscire perché me le accorda, c'è una certa potenza, già lo conoscerai meglio di me. Sì, anche io, l'ho fatto passato quella, nel senso che prima vabbè, ci praticavo abbastanza, avevo sempre il microfono in mano, adesso erano 20 anni che ero fuori, dove sono andato io. Non c'era nessuno in radio, nessuno. Beh, ma in radio cosa? In radio CB o cosa? Ah, CB, patentino neanche lo voglio, non mi interessa, però per la 27 sempre la licenza, la parecchia omologata, ogni tanto mettevo fuori l'antenna, la base magnetica, e me ne stavo così in ascolto a spazzolare, come stavo in laboratorio. Ogni volta il detto spazzolavo per magari se piaceva qualcuno, ogni tanto sentivo qualcuno lontano sul ciclo camionisti, però di parassista non aveva nessuno dalle parti di Olbia. Aerei a Olbia, aerei? Per una ventina d'anni, non di più. E non c'erano CB, non ce ne sono? No, poco di moda, scusa, poco di moda è baracchino. Il periodo è stato, lo so, gli ho chiesto, mi hanno detto, eccetera. Però poi, una volta che hanno avuto male il telefonino, se ne sono fregati. Non è passione per la radio che avevano, questo è poco ma sicuro. È ben naturale, quello diciamo... anch'io sono stato di 20 anni che non entravo in baracchino, però io sto parlando degli anni 70, ce n'erano in tutta la Sardegna, ad essere sincero, a volte mi spostavo a Torralba e a Torralba stesso, lì ce n'era la Chilemo, la Chiesi, a Bonorova, adesso non c'è più nessuno a quelle parti, non mi vorrei sbagliare, però mi sa che non c'è nessuno, magari qualche giorno me lo porto là per vedere se c'è ancora qualcuno. C'era una Torralba specialmente che era molto appassionato, si chiamava Segusi di cognome, però non mi ricordo il nome, no? E quello aveva anche un lineare di una certa potenza, devo essere sincero, non l'ho più sentito, non l'ho più visto veramente, sto lì. E cosa vuoi, le robe passano, insomma dai, in assalti io penso che anche prima di questo cavolo di coronavirus qualche CB c'era o no? Ma io so che c'era qualcuno, ma i miei punti tipo fine 80, fine 90 facevano ruote anche da 20 persone, anche su vari canali e tutti i giorni, capito? Lo so, io diciamo ho smesso di usare il baracchino, non mi ricordo manco per quale motivo, forse mi avevano rotto le scatole, le antenne sul tetto, e ho ripreso adesso perché mi ha invogliato Roberto, mi ha dato un altro baracchino, a parte il fatto che ce n'avevo uno io pure, mi ha dato questo microfono M93, dice che l'ha aggiustato Claudio, mi sembra, è sempre amplificato, mentre quello che stavo usando là, infatti sto parlando diciamo a un palmo dalla bocca, già mi stai sentendo bene, sì? Sì, appena sono pulito, chiaro, una radio tranquilla, senza essere chissà come prestigiosa, con dinamica incredibile, una radio tranquilla, una voce chiara, arrivi preciso, 5,5. Ne ho capito. Tu mi hai detto da dove che stai modulando? Da una sola, tu sei vicino a una edicola e io sono vicino all'altra. Capito, quella edicola che è di contrabbar. Qui sono l'edicola e di contrabbar tabacco. Tutta l'antenna non ho visto lì. Una volta ce n'erano due o tre in questi dintorni l'antenna, adesso non ne vedo manco uno. Infatti se c'erano due radioamatori. Gli ordinatori forse l'hai conosciuto, una Planeta, no? Che aveva una direttiva enorme, mi sembra che l'hanno tolta comunque. Ma di Planeta, se capito io, da quello che mi ricordo eccetera, era lì praticamente di una sole, e potremmo dire il povero Planeta, sbaglio. Sì, a Mario mi sembra il nome era comunque, la moglie, amica di mia moglie.